Capodopera nasce circa 20 anni fa, io sono arrivata 8 anni fa e sono arrivata proprio nel momento in cui l'azienda stava iniziando a prendere una strada particolare. E la filosofia era quella di differenziarsi, di offrire al pubblico, quindi ai nostri clienti, la possibilità di offrire ai clienti finali degli oggetti, quindi dei mobili creati apposta per le esigenze del cliente finale, decorati in un determinato modo, utilizzando delle incisioni, delle finiture, delle resine, e quindi facendo anche una ricerca sui materiali, sulle verniciature, sulle laccature, sulle possibilità di utilizzare le resine proprio su dei contenitori, su dei mobili finiti, già montati, eccetera. Quindi un lavoro artigianale, però studiato proprio nei particolari. Questi oggetti sono assolutamente personalizzabili, dietro c'è un lavoro di squadra, un lavoro di ricerca poi messo in atto dal designer, in questo caso da te. Ecco, quello che ne viene fuori è un oggetto come quello che abbiamo adesso noi qui davanti. Ecco, presentiamolo. Questa è stata una vera sfida progettuale, perché sono partito con questo progetto da un sogno, in quanto difficilmente si possono trovare delle aziende disponibili a fare degli oggetti così complicati. È una cassettiera verticale con 6 cassetti e questi listelli sono quanti per ogni cassetto? Sono quasi 800 listelli su ogni cassettiera, per cui un lavoro immane fatto a mano da dei bravi ragazzi interni dell'azienda. E appunto queste cose non sono facilmente realizzabili se non a livello artigianale. Il bello di questa azienda è che sono sempre disponibili a sfide come questa e ad andare a incuriosire il cliente finale con degli oggetti che abbiano un'anima, insomma, particolare. Saranno dei pezzi unici, un'edizione limitatissima, perché non assolutamente ci vuole un sacco di tempo per realizzarlo, per cui si va contro alcuna logica commerciale, e quindi rimarranno dei pezzi speciali e troveranno posto solo in poche case.